E quindi questa variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico sancisce sotto certi aspetti un'idea di città che è stata cominciata a pensare sempre, sì, diciamo, però a mettere in pratica da diverso tempo e niente. È il trentennio neoliberista, cioè sono 30 anni che si sta impoverendo, io ne parlo da urbanista, si sta impoverendo di senso la disciplina urbanistica, il piano non ha più questo ruolo, appunto questo non ha più contenuti di tipo sociale, ma ha contenuti di tipo economico o comunque di facilitatore delle imprese economiche speculative e private. E c'è da dire tra l'altro che non è che non ci sono state voci contrarie a questa idea di città, non è che non ci sono state proposte da questo punto di vista, proposte che appunto non prevedevano un utilizzo, una privatizzazione degli edifici, ma della città in sé, insomma, ecco. Sì, noi come gruppo urbanistica per un'altra città abbiamo scritto comunicati, scritto libri, scritto, fatto incontri, cioè le idee ci sono, non mancano certamente, vanno da, appunto, si è detto tante volte, da un piano per la città storica di Firenze, per un ritorno, diciamolo così, all'edilizia pubblica, c'è anche questo social housing che è una farsa, cioè nel senso l'edilizia pubblica buttata sul mercato in pasto dei fondi di investimento. No, noi vogliamo l'edilizia residenziale pubblica, oppure la pianificazione del commercio, cioè esistono strumenti anche di tipo tecnico amministrativo che potrebbero essere messi in pratica. Basterebbe leggersi la delibera Filangieri di Napoli, che fa leva appunto sui beni comuni e riconosce il ruolo strategico di un uso collettivo, inclusivo e di valore civile degli edifici storici dismessi e diciamo così occupati da nuove funzioni che provengono dal basso, che tra l'altro poi sono anche funzioni che tutto sommato servono anche ai comuni, perché si sopperisce, sono luoghi nei quali si sopperisce a una mancanza del welfare urbano e quindi si somministrano servizi, non è la parola che volevo usare, servizi al cittadino che la città non è più in grado di dare. Ecco, queste sono più o meno, oppure una cosa di cui mi sto convincendo sempre più, vabbè, la tassazione sull'invenduto, milioni di metri quadri di appartamenti che sono stati costruiti con la bolla edilizia, tassazione dell'invenduto, perché sono esentasse dall'IMU, e però io sto cominciando a pensare che questi edifici invenduti, questo milioni di metri quadri di appartamenti vuoti, debbano iniziare ad essere requisiti, cioè io la penso così, mancano case, l'emergenza abitativa non è stata risolta e quindi bisogna in qualche modo prendere laddove qualcuno ha fatto quattrini e però li ha fatti a detrimento della ricchezza collettiva. Ilaria, c'è un appello rispetto a questa variante? Allora, l'appello rispetto a questa variante c'è, è online sulla nostra rivista che si chiama La Città Invisibile, www.peruntracitta.org, e firmatelo perché così ci si conta e ci si mette in rete. E con questo appello che ha lanciato Ilaria, appunto, finisce qui questa trasmissione di Passaggio al Nord Ovest e vi salutiamo, eventualmente riprenderemo alcuni spunti emersi da questa discussione in puntate successive di Passaggio al Nord Ovest. Salutiamo Ilaria. Bene, vi saluto e grazie per averci ascoltato. Ciao, ciao.